Minimal Concept of Your Sound. Semplificazione di sonorità elettronicamente mista. Electro DJ Rotation Ultrasound. È un'esclusiva by Stefano Calonico e Atti DJ. Come ogni settimana torniamo su Ultrasound, nuovo appuntamento in diretta dagli studi del MEF Staff. Ben ritrovati amici miei, iniziamo subito in regia. Come oramai ben sapete, avete ben memorizzato, ci sono i nostri due men, Stefano Calonico e Atti DJ. Alla voce sono sempre io, Alessio Campanelli. Vedi scaletta che ascolteremo alcune delle nuove release molto molto interessanti. A proposito, volevo informarvi anche delle nuove collaborazioni nate proprio alcuni giorni fa, come ad esempio l'etichetta discografica Frequenza Rec e soprattutto il portale della notte www.notteinsonne.it. Mandiamo subito il primo pezzo di questo nuovo viaggio elettronico. Arriva Simone Cristini con Samba, bellissimo pezzo Tech House firmato Stereo 7 Plus. Wow. proposito dell'etichetta disco Frequenza Reca, come annunciato in apertura, per chi volesse dare uno sguardo e in alternativa curiosare sulle nuove uscite può farlo su www.frequenza.com. Frequenza propone i DJ di musica di alta qualità, producendo generi che vanno dalla techno alla techno house fino alla minimale, annoverando tra i suoi punti forti la collaborazione con importanti artisti del settore. Era giusto ricordarvelo. Intanto proseguiamo con la prossima traccia. Numero 1 era Simone Cristini con Sambada, bellissimo disco sfornato dalla Stereo 7 Plus, e ci lasciamo alle spalle la prima traccia e arriva la seconda, un pezzo con synth elettronici, release del 21 gennaio. Sto parlando del nuovo prodotto della Great Stuff Recordings, Mihalis Safras con Cards. www.mathmusic.com. Questo il nostro indirizzo internet dal quale poi potete effettuare gratuitamente i download degli appuntamenti di Ultrasound, anche quelli che avete perso, quelli delle scorse settimane. www.notensonne.it. Vi ricordo ancora la collaborazione tra i due staff, fatevi un giretto ragazzi, ne vale assolutamente la pena. Mi rivolgo principalmente a DJ e produttori, troverete molte cose interessanti riguardo il mondo della musica a 360 gradi. Traccia numero 2, abbiamo ascoltato Mihalis Safras con Cards, adesso ascolteremo un pezzo firmato Trapez 095, basato essenzialmente su suoni techno. Sto parlando della nuova uscita per questa etichetta Rava Hydrum con Holy Boring People Get Buried. Let's go. traccia numero 3 di questo nuovo appuntamento di Ultrasound. Adesso vado a leggervi una mail, come al solito un grazie a tutti quelli che interagiscono con noi, e in questo caso devo ringraziare Luca da Roma che ci scrive a info@mefmusic.com facendoci i complimenti per il programma, chiedendoci come poter richiedere un disco da lui molto apprezzato. Allora Luca, è semplicissimo, basta inviare una mail allo stesso indirizzo dove ci hai appena scritto, info@mefmusic.com, scrivendo appunto il disco che vorresti ascoltare, che in questo modo Stefano Calonico e ATDJ vedranno magari di poterlo inserire in scaletta. Continuiamo con la prossima traccia, la numero 4, un disco questo by Sunday Morning Hippie, firmato Suburas Rex. Sto parlando del grandissimo remix di Canyon. finalmente siamo arrivati anche alla quinta traccia. Abbiamo ascoltato la posizione numero 4, il bellissimo remix di Canio. E adesso, prima di andare a vedere cosa ci riserva la traccia numero 5, oltre alle due collaborazioni con Tendenze e l'etichetta discografica Frequenza Rec, volevo avvisarvi anche dell'inizio di una nuova collaborazione tra il nostro staff, quello del MEF, e il Night Portal Notte Insonne. Troverete tutte le info su www.mefmusic.com oppure direttamente su www.notteinsonne.it. Intanto torniamo alla musica, stiamo per ascoltare un pezzo tech house, Pimp Jackson Is Talking Now, direttamente dall'album 7 Do I'm Please, con nuova versione estesa, una strumentale e una a cappella firmata Desolax Hicks. And blah blah, you understand a word I'm saying? Alright, bring in that beat. Yeah, I know y'all love that bass. This that weird ass shit. What do you mean tell them about, what do you mean tell them about them girls? They don't know nothing about pimping like I pimp. Yeah, y'all heard right. I know I sound sexy. That's where I like. Jason, He's Talking Now, posizione numero 5. Disco questo firmato da Desolatex X. Ricordo, per chi non lo sapesse ancora, sono quei pezzi a tiratura limitata e devo dire che stanno andando veramente a ruba. Intanto Stefano Calonico dall'altra parte del vetro mi mostra il vinile volendo dire: oh, hey, io ce l'ho ragazzo, ok, sono contento per te, io invece non ce l'ho, a me manca. Apro una breve parentesi per i DJ e produttori che vogliono promuovere i loro lavori, i loro dischi, quelli che possono magari passare proprio all'interno di Ultrasound. Mi raccomando ragazzi, iscriveteci pure inviando una demo del vostro pezzo e se verrà ritenuta attinente al nostro format verrete ricontattati dalla nostra redazione con tutte le info sulla messa in onda. Sta per arrivare la traccia numero 6, l'annuncio subito, Hobo con Midnight. Shop Shabash. traccia numero 7, miscelata con la numero 6, Hobo Midnight. Intanto, per gli amici appena sintonizzati, vado a fare un brevissimo riepilogo delle prime 6 tracce che Stefano Calonico e Ate DJ hanno mixato proprio per noi di Ultrasound. Alla posizione numero 1 era Simone Cristini con Sambada, alla numero 2 Mihalis Safras con Cars, alla numero 3 Rohidrum con Holly Boring People Get Buried, e poi a seguire ancora traccia numero 4, il bellissimo remix di Canio, numero 5 Logo Dis, Pimp Jackson Is Talking Now, e alla numero 6 Hobo con Midnight. Adesso è la volta di una release di qualche mesetto fa, firmata da Autistic Records Style. Arriva Max Cooper alla posizione numero 7 con la sua Fuck With. www.mefmusic.com, il nostro indirizzo web per chi volesse dare un'occhiata a tutte le news che riguardano proprio il nostro staff, e per chi volesse anche scaricare gratuitamente tutti gli appuntamenti di Ultrasound. Io vi ricordo anche le nostre collaborazioni, ovvero Night Portal Notte, Insonne, Etichetta Disco Frequenza Rec e Tendenza Radio Show. Mi rivolgo a voi DJ, produttori e remixer. MEF Staff vi dà l'opportunità di promuovere i vostri pezzi, i vostri lavori, quelli che potranno passare in radio. Mi raccomando, scriveteci a info@mefmusic.com e proponeteci i vostri magnifici lavori. Proseguiamo intanto con la traccia numero 7, grandissimo Max Cooper con Fuck With. Sta per arrivare la traccia numero 8, mitico, questo è uno dei miei preferiti, Alex Gaudino e Jason Rooney, ancora insieme per questa nuova produzione firmata Time. Sto parlando di High Love Rock and Roll, che riprende il famosissimo ritornello dei The Harrows 1975. We'll be right back. new entry al 20° posto della Cool Cats chart inglese, sempre in diretta dagli studi della MF Staff con la voce di Alessio Campanelli, ovvero io, a volte mi presento anche così per ricordarvi chi sono, e in regia quei due pazzi di Stefano Calonico e ATDJ. Alla scaletta vedo che sta per arrivare un disco firmato Hot Fingers Cut, fichissimo pezzo, Tech House, Alessandro Bacci, ossia Alex Kenji, artista di fama internazionale e rispettato DJ e produttore con oltre 10 anni di esperienza alla posizione numero 9, arriva lui con Adelante. arrivati quasi alla fine. Sì, era la traccia numero 9, Alex Kenji con Adelante. Ma ci resta ad ascoltare ancora l'ultima traccia di questo appuntamento. E prima di mandarla vado a leggere una mail arrivata due giorni fa, esattamente due giorni fa in redazione. Direttamente da Pescara ci scrivono Luigi e Fabio, desiderano ascoltare il pezzo di Adam Show, Six Degrees. E allora, i nostri due DJ vi hanno accontentato. Un caloroso saluto, fatemelo fare un pochino a coloro che fanno parte della MF Staff. È obbligatorio, ma soprattutto è un grandissimo piacere. Loro sono un pochino invisibili, ma vi posso assicurare che effettivamente, soprattutto in maniera concreta, sono presenti. Li devo ringraziare di tutto cuore, l'intero staff del MF, che fanno un lavorone pazzesco settimana dopo settimana. Intanto, carissimi Luigi e Fabio, alzate pure il volume perché sta per arrivare proprio lui. Traccia numero 10, Adam Show, su etichetta Mau Fai Trap. Thank you. l'ultimo pezzo da ascoltare in questa prima parte di Ultrasound. Come ben sapete, adesso è il momento della zona guest, ovvero di DJ Pigi. Quindi giusto il tempo di una breve pausa, come al solito, caffè e sigarette, e poi torneremo ancora una volta qui in diretta dagli studi di Ultrasound con lo special guest della settimana. A fra poco. Seconda ora di appuntamento, eccoci di nuovo in studio per chi si fosse sintonizzato. Per adesso siete su Ultrasound, ragazzi. Abbiamo già ascoltato la prima ora di appuntamento, selezionata e mixata dai nostri Stefano Calonico e ATDJ. Io sono Alessio Campanelli e adesso arriva, come di consueto, la zona guest. Eh già, questa settimana la console virtuale di Ultrasound suonerà un DJ che sta prendendo piede nella scena musicale nazionale. Molte le serate in giro per l'Italia ad ascoltare i DJ nazionali e non, come Danny Tenaglia, Satoshi Tommy, Carl Cox, DJ Weeby, Ralph, Flavio Vecchi. Sono solo alcuni dei nomi che contribuiscono ad arricchire il suo bagaglio musicale, già influenzato da artisti quali Depeche Mode, The Prodigy, Giorgio Moroder e molti altri. Arriva così alla decisione di intraprendere questa attività comprando la prima console composta da due giradischi e un mixer. Nel frattempo inizia l'attività di produttore, dimostrando abilità e buon gusto. Arriva così la collaborazione duratura con il DJ Pirupa, con risultati già da subito di rilievo. Ad ogni modo, i suoi lavori sono un misto di house, tribal e techno, senza alcuna sorta di prescrizione mentale, che gli permettono di avere un sound sempre fresco e mai ripetitivo. Grazie a questo, i suoi brani entrano nella playlist di Worldwide DJ, come Choose, Tom Stefan, Nick Fanciulli, Dubfire, Funk Agenda, Noir e molti altri ancora. Lui è DJ Pigi e noi ce lo ascoltiamo qui, esclusivamente per gli amici di Ultrasound. Settimana alla console virtuale di Ultrasound suona DJ Pigi. Questa settimana alla console virtuale di Ultrasound suona DJ PG. Questa settimana alla console virtuale di Ultrasound suona DJ PG. questa settimana alla console virtuale di Ultrasound suona DJ Pigi.

questa settimana alla console virtuale di Ultrasound suona DJ Pigi. Settimana alla console virtuale di Ultrasound suona DJ Pigi. We'll be right back.

Era il mitico Pigi con il suo live set. Complimenti davvero per questa performance. Mi fanno cenno di stringere i tempi. Eh sì, perché siamo arrivati alla fine di questa settimana, alla fine di questo appuntamento di Ultrasound. Finisce qui il nostro viaggio sonoro. Vi ricordo, per chi volesse interagire con noi, può farlo come al solito tramite www.mefmusic.com, oppure potete scriverci una mail a info@mefmusic.com. Che dire, io vi ringrazio come sempre tutti quanti per la vostra tenacia, per la vostra passione nei confronti di Ultrasound. Come sempre vi rinnovo l'appuntamento la prossima settimana. Un salutone a tutto lo staff del MEF. Il particolare saluto logicamente è rivolto nei confronti dei miei due amici e DJ, Stefano Calonico e ATDJ. Io sono Alessio Campanelli, vi aspetto tra 7 giorni sempre sulle vostre frequenze preferite. Ciao ciao!